24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Vogliamo, elettori, il bagno alla turca! Come vuole che sia andata? È andata molto bene. Io devo dire che non arrivo a ringraziare i magistrati che mi hanno concesso che nel lavoro frenetico di tutti i giorni io potessi trovare un'oasi di pace di 4 ore andando lì. Un'oasi di pace a Cesano Boscone, Berlusconi l'ha trovata. Un'oasi di pace, 4 ore vado lì. Ah, finalmente, dopo il duro, intenso lavoro, ah, quest'oasi di pace dove posso stare. Certo, senza ringraziare i magistrati di Milano, per carità. Allora, buongiorno, cari italiani, alle 6:33 minuti. Vi piace questa bella campagna elettorale che ci porta dritti, dritti alle elezioni europee del 25 maggio? Andrete a votare? Sentite quanti belli argomenti europei, europeisti o anti-europeisti di cui si parla, sui giornali. Ah, sì, sì, molto, moltissimo. Alle 6:33 minuti vi do anche il numero per i vostri messaggi, 349-238-6666. Fateci sentire il vostro affetto, fateci sentire i vostri insulti. E voglio salutare Miriam Lucchetti in redazione, che oggi corre più del solito, non lo so. Il nostro alpino Peter Pescapelli, imperscrutabile, impassibile, sta contando i giorni, 363 alla prossima adunata degli alpini. 360. Dov'è l'anno prossimo? All'Aquila! All'Aquila! Già si sa, all'Aquila! Ci sarà anche Vincino? Vincino, buongiorno! Eccoci. Tu non ci vai alla adunata degli alpini? Io sono della Folgore. Sei fatto il militare nella Folgore. Ma dai, questa è una presa in giro. Non è vero, dai. Ma dai, tu nella Folgore, poi eri in lotta continua. Ma cosa dici? E che faceva? Perché di lotta continua ci mandavano alle Brigate Garibaldi, a noi? No, ci mandavano alla Folgore. Ma come la Folgore? Ma dai, ma no. 184° Battaglione Fanteria Torino a Gorizia, da Palermo mi mandarono a Gorizia. Avevo 3 giorni di viaggio con i treni di allora, no? Pensate voi, da Palermo Vincino a 18 anni, 20 anni, spedito. No, no, 26 anni, a 26 dopo la laurea. Dopo la laurea, a 26 anni spedito a Gorizia. Come fu l'impatto? Un po' stile Totò a Milano? Stupendo, guarda. Perché arrivo a Gorizia e quelli mi fanno: ah, lei è, ma lei è architetto? Dice sì. Ah, stupendo, abbiamo il fortino sul sabotino da ristrutturare. E quindi mi danno una Jeep, 5 persone a disposizione e via. Io avanti e indietro. Ha fatto l'architetto al posto del militare. Il primo mese e mezzo non ho fatto nulla, facevo facevo scambi, coprogetti, sì. Addirittura andavo, cambiavo perché. Sai cos'è questa, Vincino? Aspetta, sai cosa ti mettiamo sotto? L'inno della Folgore. Così me l'ha spacciato Peter Pescapelli. Tu non sei basito, non ti ricordi nulla. Questo è l'inno della Folgore. Mi ricordo quelle che cantavamo noi, veramente, che erano un po' più. Vabbè. 15 mesi di pasta asciutta. Fatemi salutare una che il militare non lo ha fatto. Aurora Lussana, buongiorno. Ma lo avrebbe fatto! Lo avrebbe fatto e avrebbe messo in riga tutti, quantomeno. Nella brigata alpino aerobica. Eccola lì. Quantomeno sarebbe diventata colonnello. Aurora Lussana, direttore della Padania. Forza, possiamo aprire il Parlamento? No, questa cosa però dobbiamo approfondirla. Vincino, che il primo mese di militare fa i progetti, no? Caffè volentieri a tutti quanti. Cos'è che hai portato su, Vincino? Dico i disegni, i progetti. Allora, poi il problema è questo: per i primi due mesi, allora io faccio avanti, faccio il progetto del fortino del Sabotino e la casa del colonnello comandante da ristrutturare. Beh, questo è ovvio, andava ovviamente, come dire, in pandao. Ecco, esattamente. Sì. Poi scoprono che era un pericoloso estremista di lotta continua, caputo. Già andato in galera per un mese e mezzo, due mesi. E allora alle tre di notte arrivano tipo 10 generali nella camerata, tutti fanno alzare in piedi, ci via subito tutti i cosi, i progetti, perché erano tutti cose segrete, NATO e cose, perché c'era la, certo, eravamo sul confine, no? E via, il giorno dopo a pulire i cessi. Dall'architetto hai ristrutturato la casa del colonnello. Sì, quello ho iniziato. Pericoloso sovversivo, vabbè. Aurora Lussana, senti un po', ho già visto la prima pagina della Padania, di che basta, lì bisogna battere, gli immigrati, Che dici? No, niente, sei svenuta, no? No, a parte che stavo immaginando, mi hai evocato questa immagine, Vincino, me lo sono immaginato vestito da militare, mi sono distratta. Vabbè, Vincino vestito da militare, effettivamente. Vabbè, sì, che serve la patria, canta l'inno di mamma mia. No, vabbè, mi sono distratta, sì, pensando a lui. Non è che stiamo pompando noi l'immigrazione, è che i gazebo della Lega adesso sta raccogliendo le firme per il referendum che consente di reintrodurre il reato di immigrazione clandestina. E quindi noi stiamo soltanto raccontando questo paese che alla fine pensa che l'ultimo arrivato, l'ultimo clandestino che arriva forse ha più diritti. Sì. A proposito di questo, ma voi lo sapete stasera cosa succede? Voi già stasera cosa succede? Sto preparando i gruppi d'ascolto. Ad anno uno da Giulia Innocenzi, la grandissima Giulia Innocenzi, ci ha abbandonato Vincino, intanto adesso lo recuperiamo. Ecco, vedi, sentito Giulia Innocenzi, basta, è svenuto Vincino. Stasera Salvini contro Chienghe, Salvini contro Chienghe. Salvini non è contro nessuno. Vabbè, ma dai, contro Chienghe, dibattito. La vittimina, Tony Aspri. Mamma mia, ma come inzighi su ogni parola. Dai, per accedere un po' al dibattito, la Chienghe contro Matteo Salvini. Ecco, così. Sì, stasera. Sì. No, saremo tutti sintonizzati su la festa. È la prima volta che la Chienghe torna a parlare con un leghista. Beh, d'altronde l'avete trattata talmente bene che chissà perché. Ma l'avete detto qualunque confronto. Ma c'è qualcuno che le ha detto anche la banana, le robe, dai, su. Però, uno come te è così preparato, allora deve contarle su giuste le robe. Sì. Allora non mi verrà. Stiamo già diventando la quarta radio dopo Radio Padania, altre due, si sta arrabbiando. Dimmi. No, scusami. Chi è che le ha tirato la banana? Ma no, le hanno detto, cioè ci sono state anche delle condanne di consiglieri, alcuni minori, che alcuni sono stati espulsi, ma gli hanno detto delle cose bruttissime, dai, su Lorango, dai. Calderone. Ma sai quante becerate, quante robe si vomita su Facebook? Vabbè, adesso però, ripeto, credo che Matteo Salvini sia sempre stato rispettoso nei suoi confronti e credo che per questo stasera vada un confronto pubblico con Matteo Salvini. Ma guarda, abbiamo recuperato Vincino, sai che te la sei persa, Vincino, sai che succede stasera da Giulia Innocenzi, anno 1? Sì. Salvini versus Chienghe. Chienghe Lega Chienghe. Cioè, al posto di Renzi da solo c'è Salvini e il Chienghe. Vabbè, sì. Cioè, secondo me è molto più interessante mediaticamente parlando. Non è interessante. No, è ti abbiamo fatto tornare militare stamattina, basta, hai perso la testa. Ho perso un attimo perché poi mi è caduta la linea un attimo, no? Perché i servizi segreti la PAF, quindi subito sono andati a riprendere la linea, mi ha dato lei, poi l'ho ripresa, eccoci qua. Vincerai tu. No, stasera ti sottolineavo che c'è, siccome la Padania riapre sugli immigrati, effettivamente più 823 23% di aumenti di sbarchi no, negli ultimi tempi, lo dice Frontex, quindi l'agenzia europea, e quindi insomma la Padania è per su questo. I bravi arrivano a Fiumicino direttamente, ce ne sono sull'Espresso, mi temo, Repubblica o cosa, no? Quelli bravi, vabbè. 100 al giorno, cioè 10 al giorno a Fiumicino. Vabbè. Però io volevo farvi questa domanda, e lo faccio a Vincino, che frequenta molto di più di Aurora Lussana Parlamento e Senato. Ma Primo Greganti, tu l'hai mai visto entrare in Senato? Stava là ogni giorno, lo incontravo sempre. Pare che nessuno l'abbia visto. Al Senato dicono non c'è nessun ingresso a nome Primo Greganti. Però dicono quando arrivano a fianco ai senatori sotto braccio non li si controlla, quindi. L'hai mai visto? Dai, entrava dal sotto, c'è cioè un sottopasso. Sì. Pazzesco al Senato, sì. Ti assicuro, il Senato è pieno di entrate segrete, di sottopassi, di cose. Io una volta sono andato a pranzo con un presidente del Senato di 3 senati fa. Sì, e nessuno se l'ha accorto. No, prima sono entrato con l'addetto stampa che mi ha preso da un bar di piazza quella là vicina. Una piazza. Piazza Navona, mi ha messo in un sottopasso e via, l'ho fatto 100 metri, sono rimasto così. Ma che ci sono le vie di fuga segrete al Senato? Sì, c'è un sottopasso pazzesco al Senato. Aurora, tu che l'hai frequentato anche tu, ma esistono questi? No, a me mi bloccavano sempre all'ingresso. Ma dai, controllavano la cravatta lei, senza cravatta, Aurora, senza cravatta. No, poi dovevi passare sotto il metal detector 3 volte, controllare se c'era il pass corretto con l'autorizzazione. Io entravo dall'ingresso giornalisti, Greganti magari, che c'ho più amici di me, chissà da dove entravano, non lo voglio sapere. Smentito, Palazzo Madama dice non quello, il bar di Piazza Navona. Piazza Madama ha smentito, adesso c'è il mistero Greganti, frequentava il Senato, e se sì da chi andava? E questa è la... perché adesso l'hanno espulso, l'hanno sospeso dal PD, e quindi insomma mi era rimasto questo... Però guarda, 20 anni dopo riescono a sospendere, sono un po' lenti anche là. Sì, ci hanno messo 20 anni effettivamente, l'hanno sospeso... Vabbè, tra 20 anni avremo Franco Antonio... Vabbè. Questa cosa che il ministro di polizia ieri ha richiesto di stare vigili su di lui, Grillo, nuovo ministro di polizia... ha detto seguite, ma insomma esageriamo, no? Però io vorrei far sentire questo Renzi, e su questo so che Aurora Lussana potrà essere d'accordo, almeno su questo, la battaglia di Renzi, cara Aurora, alla RAI è una battaglia leghista, come no? Vedi che allora Renzi che ha discusso anche con Floris, lei c'è un presidente del Consiglio che non ha mai incontrato il presidente della RAI e non ha mai incontrato l'amministratore delegato della RAI. Ma non sa è perché? Male questo. No, le spiego perché. Per chiedergli però Floris mi faccia dire. No, però capisco che sulla RAI hanno battibeccato così. A un certo punto pare scrivere Repubblica che il direttore generale della RAI, Gubitosi, voglia dimettersi, perché dice non mi incontra, vuole incontrare Renzi, e Renzi non lo riceve. Dice, ma il mio azionista, io sto in un posto dove il mio azionista, cioè il governo, non mi incontra. E pare che finita la trasmissione i tecnici della RAI l'abbiano affrontato a Renzi a dire, lei non deve dire che noi guadagniamo tanto, che ci sono privilegi, eccetera, noi non voteremo il PD, e Renzi gli ha detto ma non votatemi, chi se ne frega. Questa è la ricostruzione alla RAI. Aurora, fa bene Renzi ad essere giù duro con la RAI? Ma sì, l'altra sera in diretta diciamo che ha proprio rottamato il povero Floris, insomma l'ha zittito alla grande, se si chiede un sacrificio al paese lo chiede giustamente anche i dipendenti pubblici del settore dell'informazione, che sono i dipendenti della RAI, che troppi privilegi ha avuto, che troppe rogne ogni giorno gestisce. Quindi, la cosa però di RAI Way non lo so se è corretta, bisogna approfondire, perché quelle sono strutture strategiche, non lo so, quindi io dico che non è dei partiti la RAI, però non è neanche di Matteo Renzi, quindi magari... No, invece insomma... è proprio dei partiti. Cioè, no, appunto, no, dico, non dovrebbe essere né dei partiti, e invece né è del Parlamento, essere, voglio dire, è del, no, se, invece lo è questo il problema, Vincino. Appunto, tu, non dovrebbe essere. Non dovrebbe essere, se, vabbè. Allora, però io lo incontrasse il presidente della RAI, dai. Il presidente della RAI, sì, effettivamente, dai, se Gubito si chiama Renzi puoi anche riceverlo, effettivamente. Vincino, che dici tu? Ma allora, sbaglia Gubito a credere che il suo azionista sia Renzi, mentre invece il ministero del tesoro. Vabbè, diciamo, il governo. Vabbè, ma non è la stessa cosa. Capito. C'è l'autonomia, mica Renzi può fare dimettere il ministro del tesoro, no. Non ha nessun potere sul ministero, una volta nominato è via, è là, è lui che decide e fa e cosa, non... assolutamente, sbagliano tutti. Poi sbaglia Coso, Floris, perché è chiaro, il terrore di Floris è che 159 dove li prendono? Primi sono i suoi e quelli tutti gli altri suoi soci che prendono 10 milioni all'anno, dai, come dire, non, che li levano a me che non mi ha fatto niente da 15 anni. Ma no, vabbè, fermati un attimo, dai, che devo andare al traffico, sono in ritardo, poi rientriamo. 24 mattino. Alessandro, ma se a Berlusconi gli hanno dato 4 ore di sabato, a Belluti gli devono dare 1 oretta di domenica. Per la legge del contrappasso, credo che Berlusconi verrà reincarnato in un tasso. Così, se vuole scopare, le tasse alla fine le dovrà pagare. Pensa che lì, dice, sono disposto a perdere dei punti e non vincere gli europei, però voglio salvare Expo. Per forza, voglio star col culo sentato su quella scherena, voglio star col culo seduto su quella sedia, perché gli piace e perché prende i soldini, non va a sbadilare con una badilla della terra, non va a zappare la terra. L'unica cosa buona che ha fatto Monti, l'unica, è stata non firmare la candidatura alle Olimpiadi. Milan ultimamente mi sembri un po' grillino. Bravo. Volevo chiederle, ma quelli che sono della malavita, quella gente lì, che adesso vanno anche nei servizi sociali, ma non c'era un istituto Corrigendi una volta? Non esistono più? Ci passa qualche notizia per favore, così ci informa. Grazie, buongiorno. Buongiorno anche a lei, caro ascoltatore. Allora, Vincino, vuoi commentare, qualche risposta da dare? No, c'erano due, peraltro, che non ho capito perché erano molto un po' disturbati. No, devo dire che questa volta il livello era così, insomma, era così, era diciamo bassino. Era, non fare come a Didolfi, che già lui ce l'ha col pubblico. No, per carità. Disastro, diciamo. Cambiamo. Ti chiamo io domani, dai, così ti alzo un livello. Va bene. Ma sei grillino? Ma no, ma perché sono grillino? Ieri ero a Vicenza, c'era a moderare un incontro tra i vari capilista, c'era anche il tuo Tosi, è presente Tosi? Flavio, certo. Flavio. Bravissimo, sindaco di Verona. Certo. E anche l'Elisabetta Gardini mi ha detto, non faccia il conduttore di parte, quindi a me, io tutti mi tirano da una parte e dall'altra, beh, va bene così. Io dico a tutti, sentite, chi mi dà di sinistra, chi di destra, vi mettete d'accordo, poi mi decidete voi da che secondo parte. Secondo me sotto sei della Lega. Sotto sono, cosa vuol dire sotto? Sono della Lega. Questa me la devi spiegare. Inconsapevole della Lega. Ah, vabbè, un elettore inconsapevole. Allora, sentite questo Renzi che è stato scovato, credo, a Striscia la Notizia, sentite. Vincino, dovete dare poi il voto all'imitazione, Renzi che imita. Questa è la storia di Forza Rina. Un movimento che andrà a lontano. Vincino,

perché è una vicenda, come dire, scomoda da gestire politicamente parlando, il possibile arresto di un deputato del Partito Democratico in questo momento. Il Partito Democratico invece dice: noi abbiamo già detto sì alla richiesta di arresto in giunta e quindi diremo anche sì in aula, e dunque respingiamo al mittente le accuse. Ne vogliamo discutere? C'è ovviamente poi sottofondo, cari cittadini, e vi do il numero per intervenire, 800 24 00 24, la domanda annosa che molti si fanno, e cioè questa autorizzazione a procedere ha ancora senso di esistere, nel senso, perché il parlamentare debba essere considerato più uguale degli altri? Alcuni co-indagati del processo genovese, della vicenda genovese, sono già stati arrestati proprio per il fatto che non sono parlamentari. Ne parliamo, come detto, con Federico Gelli del Partito Democratico. Buongiorno onorevole, ben ritrovato. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Così come Grazie. Saluto Roberta Lombardi del Movimento 5 Stelle. Onorevole, buongiorno, eccoci qui. Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori. Allora, intanto, onorevole Lombardi, perché voi accusate addirittura? Il Partito Democratico ha detto e ha votato in commissione il sì all'arresto. In che cosa, secondo voi, stanno, come dire, facendo un gioco, tra virgolette, sporco dal punto di vista politico? Ma non solo dal punto di vista politico, direi un gioco sporco, anche dal punto di vista giudiziario, perché questa persona, per il quale è stato chiesto il mandato di arresto all'inizio di marzo, ha avuto a disposizione, grazie al suo partito, altri 60 giorni, due mesi più o meno, per eventualmente proseguire quelle che sono le sue attività criminose, perché io vorrei ricordare che l'arresto viene disposto non sempre, non d'ufficio, ma viene disposto dai giudici solo quando c'è pericolo di fuga o di reiterazione del reato o di inquinamento delle prove. Quindi se hanno disposto una misura cautelare così forte nei confronti di questo signore e questa misura non sta venendo applicata perché il suo partito sta facendo melina, perché sì, parliamoci chiaro, questo signore vale 20.000 voti, le ultime primarie tanto ha preso, e sotto campagna elettorale, come si dice, truffano Nolet, evidentemente, 20.000 voti fanno comodo, e quindi stanno cercando di traccheggiare a dopo le elezioni sì, la ratifica di quella che è stata la decisione della giunta per le elezioni. Quindi è una questione semplicemente di, secondo lei, opportunità, di opportunità elettorale. È scomodo adesso, voglio dire, anche se Federico Gelli, c'è da dire che anche oggi su Repubblica Liana Milella fa un commento a corredo dell'articolo dicendo: ma insomma, due pesi e due misure, com'è che quando ci sono di mezzo, non so, il caso Papa, il caso Verdini, cioè esponenti del centrodestra, predicate insomma grande durezza, misure strettissime, decadenza, arresto, intercettazioni, e adesso invece vi si accusa di traccheggiare a portare tutto dopo le elezioni? Ma guardi, io veramente non so che quale disegno abbia visto la collega del Movimento 5 Stelle. Noi, il nostro comportamento è stato lineare e chiaro fin dall'inizio. Non siamo noi a aver allungato i tempi dei due mesi, sono le dinamiche parlamentari della Commissione della Giunta per le garanzie che si è convocata nei tempi dovuti. Non è che abbiamo noi chiesto un dilazionamento dei due mesi. Quindi questa è una assoluta falsità. Dopodiché i nostri rappresentanti nella giunta per l'autorizzazione a procedere si sono comportati regolarmente, cioè hanno votato per l'arresto. Non vorrei che passasse il messaggio che noi, coloro che vengono in qualche modo indagati, e quindi in questo caso addirittura c'è un mandato di arresto, noi le difendiamo, in qualche modo difendiamo, ma non è così, non sì, è assolutamente non è così. Così, noi abbiamo votato per l'arresto, no, ma infatti io questo voteremo in aula per l'arresto, è chiaro, io infatti io questo l'ho detto, cioè nella giunta voi avete votato per questo, e lei per esempio voterà per l'arresto in aula quando si io tratta. Voterò per l'arresto, ma voteranno per l'arresto tutti i nostri parlamentari, al punto che noi siamo favorevoli per il voto palese. Io non so se ad esempio il Movimento 5 Stelle è per il voto e questo glielo chiediamo esatto, tra un attimo a Roberta Lombardi. Dietro a tutto questo meccanismo noi sospettiamo, perché abbiamo qualche illazione diciamo dell'ambito della Camera, del transatlantico, che ci fa sospettare che addirittura il Movimento 5 Stelle in qualche modo possa approfittare di questa situazione, che è sicuramente una situazione di imbarazzo per il nostro partito, perché negarlo sarebbe sciocco, dove, perché c'è un nostro ovviamente parlamentare indagato e quindi in fase di arresto, non vorrei che il Movimento 5 Stelle approfittasse di questo per fare il voto segreto. Questo effettivamente un po' di sciacallate. No, ma certo, questo effettivamente è un'accusa, una contraccusa. Lo chiedo tra un attimo a Roberta Lombardi, però Federico Gelli, lei un pochino l'ha detto quando parla di imbarazzo, cioè mi dica se in nome della imbarazzo che certamente suscita questa vicenda, secondo lei è politicamente legittimo dire facciamolo slittare di 10 giorni, anteponiamo, quindi pur mantenendo il voto, pur mantenendo l'intenzione di votare l'arresto, ma è meglio farlo slittare di 10 giorni? Le dico quello che è il mio pensiero, e parlando con i colleghi che conosco e parlando con il capogruppo Speranza ieri sera, noi siamo favorevoli a votare anche immediatamente, quindi in aula. Quindi sì. Per quanto mi riguarda non esiste il problema del rinvio. Cosa verrà deciso nella capigruppo non lo so, verrà deciso oggi, sì. Ma a mio avviso sia che si decida per il voto oggi nell'arresto di Genovese, sia che venga deciso fra una settimana, l'importante a mio avviso è decidere per l'arresto. Decidere e per siccome l'arresto. Il gruppo del PD è favorevole al voto palese, lo voglio dire per i radioascoltatori, che nascondersi dietro il voto segreto vuol dire in qualche modo lasciare l'incertezza, sì, che questo di chi, partito, di chi il nostro partito possa in qualche modo, no, ma infatti, difendere, allora, il Genovese. Ricordiamo, ma non è così, ricordiamo che se 20 deputati, credo, chiedono il voto segreto, si può votare in maniera, si vota appunto in modo segreto. Ecco, onorevole Lombardi, l'accusa che è stata fatta, l'ho letto anch'io sui giornali, neanche tanto velata, è il Movimento 5 Stelle potrebbe voler preferire il voto segreto, perché nel voto segreto poi addirittura si potrebbe votare da parte di alcuni contro l'arresto, in modo da dire: ah, ecco, tanto nel voto segreto poi non si sa chi vota, dire: ecco, vedete, poi il Parlamento protegge l'ennesima persona per la quale c'è una richiesta d'arresto. Guardi, è un'illazione semplicemente ridicola, perché vorrei ricordare che è stato il Movimento 5 Stelle che ha imposto, grazie anche a un'opinione pubblica particolarmente sensibilizzata da noi, il voto palese sulla decadenza di Berlusconi da senatore in Senato. Decadenza di Berlusconi che poi noi siamo riusciti a far uscire Berlusconi dalla porta principale e il PD lo ha riacchiappato dall'uscio laterale come padre costituente 2.0 nella persona del loro segretario e attuale premier. Quindi dire a noi che vogliamo il voto segreto è semplicemente ridicolo. Noi voteremo in maniera palese, non faremo ovviamente nessuna richiesta di voto segreto, non appoggeremo nessuna richiesta di voto segreto, anzi, forse per noi il voto segreto lo aboliremo, perché un parlamentare deve essere responsabile di fronte ai suoi elettori di come vota. Questo è un punto fondamentale. No, ma certo, c'è da dire che poi i cittadini chiaramente si chiedono, stiamo parlando di, se volete, procedure parlamentari quando c'è una richiesta d'arresto. Posso spiegare una piccola procedura parlamentare su questa cosa del decreto lavoro e sul discorso del rinvio? Allora, il decreto lavoro ha avuto la sua terza fiducia, perché ogni passaggio parlamentare è stato modificato al Senato. Da una fiducia praticamente. Sì, no, la modifica va bene, ma è stato connotato da una fiducia. Quindi ciò significa che non è stato possibile per le opposizioni andare a migliorare eventualmente il testo, eccetera, eccetera, perché una volta che si mette la fiducia il testo deve essere approvato così com'è e va bene. Adesso noi stiamo discutendo gli ordini del giorno, che significa sono degli impegni che la Camera o il Parlamento vota nei confronti del governo perché faccia determinate cose inerenti al provvedimento in oggetto. Ora, c'è un detto che vorrei che venisse citato dai suoi ascoltatori, che lei stesse volentieri chiama debosciati, ma che in realtà sono molto più attenti di quello che uno può immaginare, cioè il fatto che un ordine del giorno non va negato a nessuno, perché gli ordini del giorno sono praticamente delle partite di tempo, valore di un Kleenex soffiato fondamentalmente. Io ho fatto approvare a gennaio un ordine del giorno sulla legge di stabilità che prevedeva per il governo l'impegno a abbassare il trattamento economico dei deputati. Non mi sembra che questo sia avvenuto, nonostante io abbia anche depositato una proposta di Lei sta dicendo che è una perdita di tempo. È una presa per i fatti. No, ma guardi. Che c'è Gelli? Non è così. No, le volevo solo dire che, come vede, la collega che ci ha fatto una piccola lezione di regolamenti della Camera, vorrei ricordare alla collega che in maniera strumentale il Movimento 5 Stelle ha ritirato i propri ordini del giorno, quindi ha ritirato quell'azione di ostruzionismo che permane dopo il voto di fiducia. E avevano, se non erro, presentati 100 sì, 150 sì. Per mettere davanti, perché vogliono accelerare il voto genovese, quindi non gliele frega assolutamente nulla a loro del decreto lavoro, del problema dell'occupazione, dei disoccupati, dei giovani, eccetera eccetera, come gliene frega nulla dei problemi che arrivano al Parlamento. Solo che ovviamente in questa fase gli interessa affondare il coltello sulla questione di Genovese per fare campagna elettorale, per dire che loro sì. sono coloro che si impegnano di più rispetto alla battaglia della legalità, sbagliando, perché questa materia è una materia molto delicata, è una materia sul quale è giusto arrivare fino in fondo in tempi brevissimi, ma non ci si fa campagna elettorale su una condanna d'arresto di una persona. Sentiamo tra l'altro, allora, ieri Beppe Grillo addirittura ha fatto un appello alle forze armate a dire catturatelo perché potrebbe fuggire, addirittura ha detto in Libano, vabbè in Libano qua c'è, e viene fuori anche un po' la vena del comico, c'è sempre. Sentiamo Beppe Grillo. Il PD ha votato contro la calendarizzazione prima delle elezioni, quindi il Parlamento deve giudicare quest'uomo prima delle elezioni e mandarlo fuori dal Parlamento. Questa è una vergogna del PD, è una vergogna del PDL che spalleggia il PD in questa roba ignominiosa. Si può dire ignominiosa? Dico ignominiosa. Quindi un appello a tutte le forze armate, anche l'esercito, marina e sommergibili. Andatelo a prendere. Vabbè, addirittura i sommergibili adesso. Sì, ci mettono anche i sommergibili. Esatto, permettetemi almeno, io lo dico, Roberto Lombardi, ogni tanto poi viene fuori sempre la vena del comico, perché insomma i sommergibili sì. per andare a prendere sì, Genovese. Per fortuna adesso. Che qualcuno no. trova ancora da rispondere. Ho capito, però mi verrebbe da dire, cioè se la posizione è l'arresto, è una questione proprio di puntiglio, perché voi insistete, va cacciato prima delle elezioni, chiaramente perché volete, come dire, utilizzare un'arma in più in campagna elettorale, o no, onorevole Lombardi? Se no, che fretta c'è? Che differenza fa tra 5 giorni, tra 7 giorni o oggi? Ma se non ci fosse in ballo quel pacchettino di 20.000 voti che le dicevo prima, nessuna per noi. Cioè, noi non è che vogliamo affondare il coltello nella piaga per vantaggio elettorale. I 20.000 voti sono quelli di Genovese. Vabbè, ma l'inchiesta c'è, cioè la richiesta d'arresto c'è. La cosa praticamente divertente è che basterebbe non candidare persone che hanno delle, diciamo, attitudini delinquenziali. E secondo, nel momento in cui queste vengono fuori, perché la cosa è di marzo, la richiesta è dei primi di marzo, sarebbe bastato votarla immediatamente, si allontanava questa persona dalle istituzioni, il PD avrebbe potuto fare un'ottima figura dicendo: vedete, quando becchiamo uno dei nostri, o comunque c'è il sospetto che uno dei nostri abbia le mani nella marmellata, a quel punto noi per primi, che siamo il partito della legalità, mm-hmm. eccetera eccetera, lo allontaniamo. Sono loro che per convenienza elettorale se lo stanno tenendo ben stretto, facendo cordone intorno a lui. Quindi a questo punto accusare noi di manovre strane, quando loro è un giorno e mezzo che stanno facendo ostruzionismo a loro stessi con i loro ordini del giorno discussi in aula, pur di non arrivare a votare per questo signore, cioè francamente mi sembra che tutte le cose che ha detto il collega, mi dispiace, però, veramente, cioè andrebbe allontanato. Devo dire che, vabbè, per il momento è appunto indagato, nel senso che Federico Gelli andrebbe allontanato, è più che indagato, ha un ordine di arresto, sì, un ordine d'arresto, però ribadisco, però questo avviene assolutamente, ma questo avviene, l'ordine d'arresto, solo se tu hai pericolo di inquinamento delle prove, certo, se puoi reiterare il reato, se te ne puoi scappare. Sì, il problema, la falsità che dice la collega è che nessuno di noi ha in maniera artatamente ricostruito il dilazionamento dei tempi per arrivare sotto le elezioni per votare questo provvedimento. I tempi della Camera sono questi, la commissione della giunta per le autorizzazioni ha portato naturalmente ad oggi, quindi nessuno ha voluto, come dice lei, allungare i tempi per la votazione su Genovese da marzo ad oggi. Ma di cosa sta parlando? Ma io una cosa vorrei capirla, abbiamo costruito tutto questo per arrivare sotto campagna elettorale a fare questa cosa. No, ma io vorrei capire una cosa, però, alla fine, secondo le vostre previsioni, perché lei, Gelli, dice non si sa la capigruppo cosa decide, qualunque cosa decida a me sta bene, che si voti oggi o domani. Secondo Roberta Lombardi, si voterà oggi questa vicenda di Genovese? No. E le dico di più, noi abbiamo chiesto, uno, ieri sera eventualmente di fare la seduta a Fiume, quindi finire ieri sera con il voto definitivo il decreto legge lavoro, in modo che stamattina il primo punto all'ordine del giorno fosse la votazione sul Genovese. O altrimenti abbiamo detto, settimana prossima che le Camere hanno deciso di chiudere perché si è sotto campagna elettorale, cosa che io trovo francamente assurda, da lavoratrice dipendente, io trovo assurdo che si chiuda una settimana perché si è sotto campagna elettorale. D'altronde questo è il vizietto dei partiti che candidano persone che hanno un mandato in corso, sì, in caso colleghi parlamentari o senatori, per quindi disattendendo il mandato che i cittadini gli hanno conferito per andarsi a posizionare in altri posti. Ma quindi oggi non si voterà. Oggi non domani si voterà, neanche è chiusa domani la Camera? Domani no, adesso si fa, oggi si voterà una versione dell'ordine del giorno, quindi verrà, che è una votazione che viene fatta dall'Aula e serve quindi la maggioranza che il PDA. La votazione dell'ordine del giorno anteporrà alla votazione il decreto casa e il decreto casa e la quindi Mare Nostrum, eccetera. Vabbè, quindi si arriverà a dopo le elezioni, questo è dato. Ma d'altronde questo è un paese sospeso dopo le elezioni, no? Si fa tutto dopo le elezioni perché devono vedere cosa esce dalle urne per decidere che fare. Vabbè, diciamo così, staremo a vedere. Ieri Francantonio Genovese, questo racconta la Repubblica, quando ha incrociato i cronisti nel pieno della battaglia, scrive per esempio Tommaso Ciriaco su Repubblica, ha sospirato con un filo di voce: vi prego, non ora, siate buoni. Noi abbiamo provato anche a contattarla anche i giorni scorsi, diciamo, appena uno si qualifica, siamo in Radio 24, tu mette giù, insomma il momento non è chiaramente dei più facili, immaginate, è una persona che rischia che le porte del carcere si spalanchino di fronte. Devo ringrazio Federico Gelli del Partito Democratico, Roberta Lombardi del Movimento 5 Stelle. Rientriamo ovviamente con le telefonate degli ascoltatori, però avremo ospite anche Lucio Barani, un senatore che si proclama fieramente socialista, va ancora in giro col garofano, ed è colui che è andato a trovare in carcere Scajola, in carcere l'ex senatore Luigi Grillo arrestato per la vicenda dell'Expo, e ci racconterà qualcosa. Intanto state con noi. 24 mattino. Allora, sono le 8:41 minuti, cari ascoltatori, eccoci qua, il numero per i vostri interventi 800 24 00 24, è il vostro momento. Prima di avere con noi il senatore Lucio Barani, vorrei sentire Vincenzo dalla provincia di Napoli. Stiamo parlando della vicenda, insomma, dell'arresto per un deputato. Vincenzo, buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Dica. Allora, io volevo portare una mia idea che tratta anche della mia esperienza di avvocato. Io sono dell'idea che l'immunità parlamentare sia un grande strumento di tutela anche dell'ordinamento, tant'è che io sono per, diciamo, la mia idea è che si dovrebbe addirittura tornare all'immunità parlamentare prima della riforma introdotta dopo Mani Pulite. L'immunità parlamentare, secondo me, è uno strumento che garantisce il potere giudiziario dal potere politico, quindi sì, questa è la premessa. Così è nato, e così dovrebbe tornare anche. Purtroppo è stata un pochino, è stata, non crede che è stata, è nata per questo principio sacrosanto del principio appunto della separazione dei poteri e della indipendenza del Parlamento, ma non crede che sia stato lievemente abusato come strumento negli anni? Purtroppo tutti i diritti si prestano a un abuso, diciamo che il controllo che almeno i padri costituenti poi volevano dare è di nuovo ai cittadini. Capisce. Dal momento di votare dovrebbero ricordarsi di chi ha servito, insomma, il paese in capisce modo corretto. Che poi la gente si arrabbia e per controreazione dice: e allora aboliamo tutto, togliamo tutto, anche di fronte alla minima indagine togliamolo. Ricordo, però l'onda emozionale non deve essere poi lasciata, insomma, che prenda un corso sbagliato. Diciamo che i diritti si prestano per loro natura all'abuso, poi saranno i cittadini al momento in cui devono eleggere i loro rappresentanti dovrebbero ricordarsi, ma non è che si può dare addosso al parlamentare. Certo, qua cerchiamo di spiegare, fare informazioni in maniera pacata, però anche dicendo le cose come stanno. Grazie Vincenzo. Mauro dalla provincia di Pisa. Buongiorno a tutti. Allora, io trovo insopportabile da parte mia, appunto, le argomentazioni che io tengo pretestuose, che i politici di vario grado e livello, tutti, portano per giustificare l'ingiustificabile. Siamo arrivati a creare un dizionario, tutta una serie di figure, una sensibilità proprio specifica per chi è parlamentare o politico, che non risponde corrisponde alla stessa sensibilità che si ha verso i cittadini comuni. E questo l'hanno creato i politici. Quindi quel che dicono è nel loro discorso è tutto un filo logico, no? Che si può anche dire avete ragione. Poi di fatto, di sostanza, stanno bloccando l'arresto di qualcuno che molto probabilmente ha commesso dei reati gravi. Non lo, solo non lo sappiamo, diciamo che è stato richiesto l'arresto. L'ultima postilla poi la saluto. Sì. Quello che trovo un po' assurdo anche da parte vostra e sì, in questo caso dico categoria giornalisti e giornalismo, è l'approccio che avete al Movimento 5 Stelle. Perché lo trovo un po' assurdo? Perché sono le stesse domande, le stesse risposte e domande pertinenti che facevate, sì, un tempo ai politici, adesso quando le fanno il Movimento 5 Stelle è comodo. Ma guardi, io Mauro, mi scusi, dica. No, io sinceramente ragionare per categoria, lei che lavoro fa? Io sono operaio comunale, quindi a me mi categorizzano spesso. Ecco, no, è come se io dicessi che tutti gli operai comunali sono. Io rispondo per me stesso, non lo so se poi ragionare per categorie, i giornalisti si comportano, sì, così col Movimento 5 Stelle. Non allora lo so, le faccio io cerco di fare umilmente il mio lavoro, probabilmente mi riesce male, forse bene, non lo so, ma non. Dica, faccia la critica. Quello che dico, le stesse domande che magari faceva anche lei in Milan, no? Adesso le pongono i parlamentari ai loro stessi colleghi. Sì, no? Sì. Quello che non fanno loro è un po' di supponenza, nel senso, quando voi fate domande ai 5 Stelle o sì, roba del genere, sembra quasi che li giudichiate. Ora la prego di io non sono padrone molto bene della lingua italiana e magari rischio di dire una cosa per un'altra, però quello che mi sembra di sentire da parte dei giornalisti, sì, è un po' di supponenza, sì, e dire sì, voi chiacchierate così perché è politica, cosa che magari prima facevate voi invece, le stesse domande che facevate e ora non fate più, oppure vabbè, se non ci sono Movimenti 5 Stelle gliele fate. Mauro, no, accetto la critica, ripeto, io in genere come filosofia ho questa, se ho Renzi cerco di criticare Renzi, se ho Berlusconi critico Berlusconi, se ho uno del Movimento 5 Stelle critico, cerco di vedere le cose critiche perché mi piace così, nel senso che mi piace fare, tra virgolette, mettere un po' in difficoltà, se devo chiamare Renzi per dirgli che quanto è bravo, se devo chiamare Berlusconi per dirgli quanto è bravo, quello del Movimento 5 Stelle per dirgli quanto è bravo, no, cerco di trovare le cose sulle quali le persone possono essere criticate perché almeno possono rispondere, no? Almeno nel giornalismo anglosassone funziona così, magari in Italia no. Però voglio salutare il senatore Lucio Barani, buongiorno senatore. Buongiorno a voi. Allora, le devo chiedere un attimo di pazienza, ci sono le informazioni sul traffico. Il senatore Barani, che è un socialista, orgogliosamente socialista, tanto che si definisce senatore con il garofano e gira sempre col garofano rosso appuntato al petto nella giacca, è andato in carcere, che è prerogativa di tutti i parlamentari, a trovare, a sincerarsi le condizioni di Scajola, del senatore, l'ex senatore Luigi Grillo, ma anche di Primo Greganti, e da Primo Greganti voglio partire perché insomma c'è un giallo, tra un attimo lo scopriremo. Allora, siamo qui. Allora, il giallo è questo. Primo Greganti, secondo alcune testimonianze, ogni mercoledì andava al Senato. Ora, al Senato dicono di non averlo mai visto alcuni, nel senso non c'è nessuna iscrizione nel registro nell'entrata a Palazzo Madama di Primo Greganti. Lei, senatore Barani, invece giura di averlo visto, addirittura. No, io giuro di averlo visto ad opera domenica mattina. Che questo sì, in carcere, dove ovviamente mi sono andato a sincerare delle condizioni di salute di questi temporaneamente famosi detenuti. D'altronde sono membro della Commissione di Giustizia del Senato e questo è il mio compito. Però lei dice, è sicuro di averlo visto, così ho letto sul Corriere. Certo che l'ho visto al Senato, non l'ho solo visto io, l'hanno visto anche molti altri, anche molti miei colleghi, guardi, che non è corretto dire che non c'è nessuna registrazione, perché quando c'è il pass accompagnato da un senatore non c'è registrazione, quindi gli cioè, danno non si chiede neanche ma il documento. Lui, certo, si chiede il documento, gli danno il pass senza nessun tipo di registrazione, e quando si esce c'è la situazione inversa, ridà il pass e gli danno il documento. Ma perché ci sarebbe adesso? No, certo, ma perché ci deve essere questo imbarazzo nel dire primo gradante? Ma non c'è nessun problema. Cioè, no, guarda, che molti dicono... venuto a trovare me, però non sono migliaia le persone che il giorno varcano la soglia della Camera o del Senato e vanno ovviamente lì per salutare qualcuno. Capito, però capisce che adesso prendere un caffè a qualcuno si commettono reati no, però qualcuno può creare imbarazzo, infatti tutti prendono le distanze, dicono, ma secondo lei a chi andava a trovare? Ma io credo che il Partito Democratico in imbarazzo c'è sempre, nel senso che deve continuamente prendere dei lassativi per salvarsi in calcio d'angolo. Vent'anni fa è stato un lassativo Greganti, perché è stato un salvatore, adesso non si sanno assumere le proprie responsabilità, sì. Anche perché non c'è mica da vergognarsi se ci sono delle frequentazioni lecite, legittime. Certo. Ma come l'ha trovato in carcere? Perché sa, Primo Greganti 20 anni fa era noto perché non ha fiatato, non ha detto nulla di quello che secondo alcuni avrebbe potuto dire. Come, ho sempre preso i soldi ma non per il partito. Io ci ho parlato non più di 3 o 4 minuti. L'ho trovato simile a 20 anni fa, se questo è il punto di vista che vogliamo discuterne, cioè l'ho trovato determinato, quelle poche parole che mi ha detto è una bolla mediatica, sono resti elettorali, il 26 ha citato la data del 26, io gli ho voluto anche specificare, ma di questo mese certo, dice, non ne parlerà più nessuno, non c'è assolutamente nulla, è solamente una questione elettorale, e quello che leggo dai giornali o vedo dei telegiornali è strutturato. Ho capito, ma ci sarà un processo. È quello che dice lui, io sono andato a vedere le sue condizioni di salute. No, ma è chiaro. Ma secondo lei, cioè, se è chiesto quando entrava Greganti al Senato, se è chiesto, no, non si chiedeva nulla. Chi andava a incontrare? È naturale, io l'ho visto, io parlo di un mese fa, insomma, sì, ma sapeva anche più o meno una settimana, io l'ho visto solo una volta. Ma l'ha visto bere anche il caffè con qualcuno di particolare? Io l'ho visto alla buvette. Con chi? E ho cercato di focalizzare, sicuramente ha fatto qualche battuta con dei senatori che conosceva del Movimento 5 Stelle, ma battute che erano lì e che del si Movimento conoscevano, 5 Stelle. Però era accompagnato da esponenti del PD, che ovviamente dovranno essere loro a dire, cioè, non l'avrei mai pensato, avere il coraggio delle loro azioni, perché bisogna avere le palle per dire bene. Ma lo dica lei, assolutamente, cioè... no, ci mancherebbe altro, no, con dei senatori, ma lo sanno perfettamente gli inquirenti, l'hanno accompagnato e credo scortati dalla doppia scorta, perché erano più per il conflitto che c'è per la guerra che c'è nelle procure di Milano, c'erano più PM che lo facevano seguire, e quindi lo sapranno, reciprocamente. No, mi scusi, sul PD sì, sul Movimento 5 Stelle sa che qualcuno del Movimento 5 Stelle che la sente dirà: noi con Primo Greganti, il senatore Barani ci sta tirando questa. Ma ora, se si trova uno a prendere un caffè, si conosce, è di Odissello, o di Forza Italia, gli si fa una battuta, io ricordo anche la battuta, quindi ci dica la battuta, no. Ma anche la battuta è una battuta banale di dire: ma come, anche voi prendete il caffè? Ah, è una battutone di primo, ma però non ci dice con quale senatore era accompagnato. Ma che si conoscevano, perché tra l'altro si conoscevano, perché erano a Lombardi, sia quelli del Movimento 5 Stelle, sì, sia. Però non ci dice i senatori che l'accompagnavano. Ma mi sembra scorretto. Mi dica invece se è vero, visto che lei è andato alla Scajola, anche che Scajola dice sono come Andreotti. Sì, l'ha detto a me, quindi non c'è problemi da questo punto di vista. Ma perché sono come Andreotti? Ma perché lui dice che dalle carte che ha avuto modo di leggere, ma anche senza le carte, lui si è sempre comportato correttamente, fra l'altro ha fatto alcuni riferimenti anche al fatto che quando una procura arresta una madre, allora se una madre non aiuta il figlio, è lì, e glielo dico da medico, c'è veramente un problema, no? Sì. Ma è naturale che la madre partorisca, aiuterà sempre quel figlio, costi quel che costi, insomma. Mi sembra di trovarmi di fronte, ma manco il fascismo ha arrestato la madre di Pertini, eppure l'ha sempre aiutato. Ma dico, qui siamo in questo campo, la dittatura, una donna di 80 anni è contro natura, è contro qualsiasi legge. Sì, però invece sulla sua vicenda, natura. Cioè io sono come Andreotti, ma secondo lei è un complimento, vuole dire come complimento? No, perché non vuole ammalarsi, vuole resistere, perché quando Andreotti è stato accusato di tutte quelle cose che poi erano... Sì. Erano false, lo hanno fatto pensando che lui morisse, era paragone che ha voluto fare, e che l'ha detto, non mi faccio nemmeno la doccia per paura di prendere la bocca. No, ma sa su questo, perché non gli voglio, sulla longevità, quindi io voglio essere longevo per dimostrare che questi però sulla questione vede sul false, perché a me ha colpito, perché sappiamo invece che per una certa parte nel dispositivo di sentenza Andreotti poi quando fu, è vero, assolto, ma per una parte nella parte di legami con la mafia intervenne la prescrizione, ecco, era questa la questione che mi aveva colpito, il paragone di Scajola che ha fatto di se stesso su Andreotti. Comunque la ringrazio, senatore, per essere stato con noi, il senatore Lucio Barani, con cui concludiamo questa puntata di 24 Mattino, con Miriam Lucchetti, Alessandro Marcotulli ed Elisabetta Fusconi in redazione, anche Anita Panizza ha curato oggi la puntata. E allora Alpino, sei pronto? All'Aquila l'anno prossimo, 360 giorni alla Dunata degli Alpini 2015. Noi ci sentiamo domani 6:30.